antiviolenza dell'Aquila, e lei ci parlerà, aprirà questa mattinata e ci parlerà un po' della vicenda, del perché noi stiamo andando lì sotto questa mattina. Questa mattina, ricordiamo, è la prima udienza di un processo a Francesco Tucci, accusato di stupro di una studentessa, abbandonata poi esanime e ferita all'uscita di una discoteca. Noi siamo qui con l'avvocata e questa mattina ci spiegherà un po' come sono andate le cose. Sì, intanto ciao. Buongiorno a tutte e tutti. E questa vicenda nasce purtroppo il 12 febbraio del 2012 all'esterno di una discoteca della città, in realtà situata presso un altro comune limitrofo, il comune di Pizzoli, dove una giovanissima studentessa è stata stuprata e ridotta in fin di vita. E chiaramente il fatto ha colpito la città, ha colpito soprattutto le donne impegnate nell'attività del centro antiviolenza, e abbiamo quindi seguito questa vicenda proprio perché riteniamo che ogni qualvolta sia stuprata o è umiliata, offesa una donna, ci riguardi tutte. E le indagini preliminari via via hanno portato all'individuazione di un presunto responsabile, un militare di stanza all'Aquila, impegnato in una operazione denominata l'Aquila Città Sicura, che si iscrive dentro la cornice emergenziale in cui la città è stata precipitata dopo il terremoto di 3 anni fa. E questo militare oggi sarà insomma in aula, o si presume che sarà in aula, per rispondere di reati che vanno dalla violenza sessuale aggravata al tentato omicidio. È un giudizio importante e significativo, come ogni qualvolta ci si occupa di reati di stupro e di violenza nei confronti delle donne, perché purtroppo è uno dei processi più a rischio per la persona offesa, che in un paese come questo spesso viene trasformata nella persona da giudicare. Ecco il senso di una mobilitazione vasta che sia il centro antiviolenza, sia le compagne del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Roma hanno voluto organizzare. Questa mattina siamo qui e rimarremo qui all'esterno del Palazzo di Giustizia a Bazzano, proprio per ribadire che ogni volta che viene stuprata una donna, tutte le donne sono chiamate ad esserci, proprio perché è un fatto che riguarda tutte noi, quindi non è una presenza per limitarci ad esprimere una solidarietà che sicuramente dentro di noi proviamo, ma è una presenza politica per ribadire che condanniamo ogni atto di violenza commesso dagli uomini nei nostri confronti, e quando parliamo di violenza, definendola appunto di genere, parliamo della violenza in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni, ed è una violenza ricorrente e costante in questo paese. Quindi questa presenza vuole essere uno dei tanti modi per far uscire dall'isolamento e anche dalla dimensione privata fatti così gravi che sicuramente riguardano la vita di questa giovane donna, purtroppo, ma vogliamo che riguardi la vita di tutte noi, proprio perché se si rompe il cerchio della solitudine e dell'isolamento in cui queste cose vengono rigettate in questo paese, bene, se si riesce a rompere questo cerchio, forse riguardandoci tutte saremo anche più in grado di essere efficaci nel contrasto alla violenza maschile. Quindi questo è il senso di una mobilitazione che stiamo per vivere e che vivrà grazie al contributo di tante donne che ci auguriamo e sappiamo si stanno muovendo un po' in tutta Italia. E vorrei aggiungere che anche tante che non ci saranno, che non potranno esserci fisicamente, hanno voluto comunque mandare messaggi e mandare testimonianze per esserci in qualsiasi modo.